Ce la fai a guidare? Sì, sì. Dai, dai, guido io, dai. Vai tranquillo. Oh, ma hai visto la bionda? Ma quale? Quella mezza nuda? Sì, cazzo, era pazzesca. Ma cazzo, è la mia cugina quella. Ma che cazzo stai dicendo? Intendo quella che era fatta come una foca dell'Iridiana. Tutte boiate. Cioè, ora sono felice, ma domani quando mi passerà il mal di testa starò di merda. Dai, dai, non romperà adesso, dai. Cazzo, con uno che ritenevo mio amico. Sì. Mi ha proprio preso per il culo. Dai, dai, basta, accendi la radio. Mi ritenevo un conoscente, cazzo. Che bel mondo di merda. Accendi sta radio. Ok, ok. Mamma, che schifo di radio. Metti sulla solita.